Stamattina. Non devi mangiare fuori dai pasti. Ma non l'ho mangiata. L'ho buttata. Dove? Fuori. Da dove? Dalla finestra. No. Tu l'hai mangiata. Ma non ho fame. Lo sai, non ho mai fame. Ma pensi che non me ne accorga? Ma non ho fame. Lo sai, non ho mai fame. Ma vuoi prendermi in giro? Non devi mangiare fuori dai pasti un tocco di pillole, due blister al giorno e mai fuori dai pasti. Che devo fare? Magari prendere le pillole all'ora dei pasti, dopo la fisioterapia. Dico, dopo quello che è successo, i dottori ci hanno raccomandato di non rischiare. Secondo te perché i cani mangiano sempre solo croccantini? Per non rischiare. Devi stare tranquillo, qui dentro c'è tutto. Acqua, pane, pasta, pizza, patate, il birra. Mio pranzo. Sì, il tuo pranzo. Oggi digiuni. Prendi la patata. La patata. Sì, la patata contiene una serie infinita di sostanze. Dentro la patata c'è un enorme significato. Però si chiama patata. A forma di patata. A gusto di patata. Non di pillola. Ma è qui che ti sbagli, perché tu non prendi la pillola, ma la patata, le sue sostanze condensate in pillola. Quindi devo prenderla adesso o dopo? No, oggi digiuni. Te? Cree. Che pensi? Niente. Lo sai, non devi pensare. Lo sai, non penso. No, tu stai pensando. Non ti voglio dire. Ferri! Che bello! Niente! Ma se me l'hai appena detto, stavi pensando! Vorrei uscire. Cree? Vuoi che ti pulisca gli occhiali? No! Che pensi? Niente! Dai, non mi dire bugie, che stai pensando? Niente! Ma come fai a non pensare a niente? Me l'hanno insegnato. Ma tu non ne sei capace! Per te è impossibile non pensare a niente. Tu hai 3.000 pensieri. Tu sei... Fammi rivedere quella cosa. Trrr. Me la insegni? Così. giù. Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr scatole vuote, allora tutto quello che penso io se ne va. Sì. Non ci riesco. Vedi che ti riesci. No, non mi piace questo gioco, non mi interessa e poi non ha senso. Che hai? Ti senti male? No. Non mi dici mai cosa. Come ti senti? Vorrei uscire. Ma non ti mettere le mani in bocca, non ti mettere le mani in bocca e non ti toccare! Ma perché questa mania di toccarti, di stricarti? Ti dà fastidio. Ma c'è qualcosa che ti dà fastidio di me? No, perché a me dà fastidio quando ti tocchi, quando ti muovi, quando sputi, quando fai rumore con la bocca. Poi devi migliorare. Va bene. Se poi sei troppo condiscendente, così non mi dà fastidio che dici che mi dà fastidio, perché vuol dire che ti senti giudicato. Ma quando sei vulnerabile, non ti metti, la smetti! mi brucia la gola, ho una sete da morire. Te lo ripeto per la terza volta, acqua non ce n'è. Ho sete. Probabilmente era rimasto un sorsino, ma siccome era del rubinetto vecchio, ho pensato che fosse tutto gettata via dalla piccola. Tranquillo, è così forte il cuore, troppo forte, mi viene l'ansia. Bello prendersi cura di te. Grazie. Sei l'unico oggetto della mia preoccupazione. Meglio. Perché io due o tre idee le sto covando. Io le sto covando. Sei cagatina in cova. In cova per lei. Mi piace. Quando partorisci la tua idea? Io? Tu. Io. Io non partorisco. Io le idee le covo. E basta. Le tue idee non nascono. Ma no. Far nascere un'idea è sempre, per forza di cose, una delusione, no? un fallimento. L'idea, come dire, materializzandosi, finirebbe. Se non nasci, non vivi. Senti, se ci limitassimo ad avere idee, a ragionarci intorno, se aspettassimo sempre, noi saremmo infiniti. Abbiamo aspettato. Cosa? Come cosa? Abbiamo aspettato un sacco. Bene. Bello, il bello è aspettare. Anche una torta, quando la si sforna ed è pronta per essere mangiata, è finita. Il bello è vederla gonfiare in forno, crepare la sua crosta croccante. Io me lo ricordo, quando ero bambina me ne stavo in cucina a guardare mia nonna mentre impastava. Poi, di nascosto, mi mettevo davanti al vetro del forno e osservavo la torta che cresceva. Era uno spettacolo! Intanto il profumo di torta si diffondeva nell'aria. Ti assicuro che era il momento più bello della mia vita. Poi però suonava il timer. E mia nonna correva come una disperata a prendere la torta dal forno e la piazzava su un vassoio a raffreddare. Me la presentava. Mi guardava essere fatta perché sì, io ero molto triste. Sai, secondo me cuocere è molto meglio che essere già cotti. Hai capito? No. Ora hai capito? No. Meglio, dai. Sicuro? No. Non ci pensi più, va? Gri. Hai mai visto le stelle? No. Sì. Hai mai contato le mattonelle? No. Fuori? Sì, per strada. Io ho sempre fatto la conta delle mattonelle. Passo, mattonella. Passo, ma sì, così guardavo un tombino vuoto e lo evitavo. Una cacca e la evitavo. Una masticante e la evitavo. Fuori in giro di pericoli. Participio presente del verbo masticare, che indica l'oggettino che viene masticato, ma che da te non si usa. No. Meglio, un pericolo in mezzo. Ma non so. Sì. Quindi tu non hai mai visto le stelle? No, ti ho detto che mi sono sempre concentrata sulle mattonelle. Come dire, le mattonelle di casa sono sempre troppo poche. Così, per renderle infinite, le ho sommate a tutte le mattonelle di marciapiedi che ho contato. Le stelle non bisogna contare. Non le ho mai contate, dai, io sono miope, sono troppo distanti. Poi senti, proprio non c'hanno niente, ma niente a che vedere con l'uomo. Ma come no? Ma come sì? Desiderare, sai cos'è? Sì, presente in fine, vedi, mi fai. Desiderare finito. Significa avere a che fare con le stelle. Le stelle non bisogna contarle. Le stelle sono infinite, come i desideri degli uomini. Senti, ma scusa, la faccenda delle stelle cadenti come funziona? Per ogni stella che cade, c'è un desiderio che precipita? No. Come no? Un desiderio che nasce. Sì, e come? La stella, quando sta per morire, cade. Se tu esprimi il tuo desiderio, la renderai immortale. Non lo ripeto, però mi commuovo con questa tua poesia. Senti, mi stai dando un sacco di soddisfazioni oggi. Che dici? Riprendiamo gli esercizi creativi? Un po' con l'istante. Ma dai, bisogna metterci in forma! E dobbiamo metterci in forma con gli esercizi creativi. Cominciamo. Tutto dentro? Tutto. Ci sei? Ci sono. Dritto, tutto dritto così. Ci siamo? Possiamo iniziare. Del finanziamento. io sapevo che per sposarsi bisogna andare in chiesa, o al massimo dal sindaco. Vorrei abbracciarti. Anch'io lo vorrei, ma non si può. Ma io vorrei abbracciarti. Anch'io lo vorrei, ma non si può. Facciamo. No, no, dai, non si può. Ma tu sei sicuro di quello che vuoi? Sì, vorrei abbracciarti. Cos'è un abbraccio? Una cosa bella. Ah. Per essere felice. Che bello. È per il possesso delle cose belle che i felici sono felici. Ma tu credi che ricevendo il mio abbraccio potrai essere felice? Sì, credo. E tu credi che basti volere una cosa, ottenerla? Saremmo tutti felici. Alcuni ci riescono. Ma altri no. Ma come fanno quelli che ci riescono? Dicono di amarsi. Di amarsi per sempre. È un modo di dire, comunque. La gente ama molto i modi di dire. E non è che per ogni modo di dire stia lì a chiedersi che cosa voglia dire o non dire. Lo dice e basta. Che cosa vuole dire amarsi? E poi per sempre. Dai, amore... Togliere la morte. È sempre lo stesso poeta. Scusa, ma quindi tu credi di essere immortale? No, io non credo di essere immortale. Meglio, va? È l'amore che resta. Ma cosa resta? Dai, basta ora. L'amante, amante. Sì, quell'amante. Ah! Nel senso di chi ha il signorotto participio presente amante avrà un oggettino bello da amare, ma anche quello si deteriora. Poi a quel punto cosa resta? No, dico, cosa resta? No, credo. Non funziona così. Allora non funziona? O funziona? Dai, come dovrebbe funzionare? L'amante, anche se muore, lascia al suo posto qualcosa di nuovo. È simile a lui. Scusa, non ti sento, si può spiegare. Amando, l'amante crea. Nel bello, per sempre. Oh. Non è il caso nostro. Sai. E dopo però, ora aspettiamo un po'. Sai, io questa... Sì, dopo, aspettiamo un po', no? Abbiamo aspettato. Dopo, cosa? Sai, io stanotte mi sono addormentato. E ho iniziato a fare così, e poi così, e poi così, e poi ho immaginato, sì, ho sognato io, te e una bimba. Ma zitto, c'è un sacco di gente. Sì, una bimba. Ma perché non facciamo una bambina? Ancora, guarda quanta gente c'è, uno, due, tre, è un cane, una bimba è un cane, e io e te abbracciamo. Una bimba è un cane? Bello sarebbe però. Bello, bello. Però una bimba è un cane. Poi le viene la ronda. Al cane. Senti, mi fai impressione che sta facendo della bambina e del cane? No, vedrai, sarà bellissimo. Vorrei una famiglia. Ho capito, ma io la bambina, con la rogna, non la voglio. Con la rogna, noi facciamo tre bambini. Con la rogna. Poi siamo troppo pazzi, la bambina mi viene pazza. Come la chiamo? Pezzettina, Tina? Non mi è mai piaciuto il nome, Tina. Non ti piace Tina? Tua rogna si chiama Tina? No. E poi magari le viene il tonaco. E i tuoi capelli. E i miei capelli. E la tua testa. E i tuoi piedi. E i miei piedi. E la tua bocca. Un orecchio sì e un orecchio no. Un orecchio azzurro come il tuo e un occhio nero come il mio. Mi sto impressionando, dai, veloce, subito, velocemente. Attenzione, l'immagine della bambina, corta, ci sono con i capelli, c'è una sfrangella, ma non col pelo corto come il tuo. No, magari prendiamo il cane basta. Ma il problema era il cane, perché il cane c'ha la rogna. Poi ci viene la rogna, magari anche i nostri sogni. Allora il cane no. No, no, no, no, no. Magari viene una fricchettona. No, ma che c'entra? Invece di un dottore una bambina fricchettona, no. E se ti viene un dottore fricchettone? No, senti, mi sto impressionando. Dai, fai veloce, sempre lento, fai veloce, subito, velocemente, perciò l'immagine, la bambina cocciola, lunga, c'è una cosa, con le braccia lunghe, che se ne va in giro, rumoreggiando per la casa, con le ali, come se fosse un elicottero, dai! Ah, ah, ah. Che paura! Dalla finestra e col tatto ci raccontassero tutto. gli occhi, la testa, la bocca. Voglio fare un passo dopo l'altro. Voglio fare due passi. Non lo so, voglio andare al mercato, in chiesa, sul lungomare. Sì, voglio andare sul lungomare di Reggio, mangiare una granita, la sera bere una birra e poi chiacchierare di cose che saranno sempre banali, dette e ridette da sempre. Voglio guardare le famiglie, il padre, la madre e il bambino che corre col monopattino e corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, poi cade, si va male. E il padre che gli dice, su, alzati, non ti sei fatto niente. Certo, il padre non lo sente il dolore, ma il bambino lo sente. I bambini sentono tutto, capiscono tutto. Perché non puoi uscire? Per andare a comprare i guanti? No, vai fuori. Mi dici quello che vuoi. Però vorrei abbracciarti. Anch'io lo vorrei, ma non si può. Ma io vorrei abbracciarti. Ma anch'io lo vorrei, ma non si può. Dai, facciamolo. No. Ma tu sei sicura di ciò che vuoi? Sì, vorrei abbracciarti. Me l'hai insegnato tu per essere felici. E allora esci. Mi dici quello che vedi. Io le cambio mondi. Dai, come si fa? Spegni la luce. Come faccio? Faccio finta che dormo? Oppure dormo per finta? No. Che faccio? Sogni per davvero. Quando ero piccolo, la notte era piena di luci, in casa, per le strade, dappertutto. E quando alzavi gli occhi non vedevi più il cielo, non vedevi più le stelle. Era per questo che i grandi erano infelici, perché non si occupavano più di guardare il cielo, ma si occupavano solo di accendere nuove luci, per vedere meglio, ma non vedevano. Che cosa vedi? Vedo una collina. E ai piedi della collina un piccolo paese con le case che si tuffano nel mare. Poi ti vedo, sì, sei tu, in maniche di camicia, che raccogli una rete da pesca. C'è un sacco di gente, tantissima gente, tu saluti tutti, stringi la mano a tutti. Sono pure io sono in alto e ti saluto dalla finestra. Sto cucinando la pasta asciutta. Beh, in mezzo c'è una bambina che corre, corre, corre, ride. E ha le codine e ha gli occhi azzurri come i miei. Il naso è come il tuo. Meglio, meglio. Beh, da qui vedo meglio, hai ragione. Secondo me la possiamo fare una bambina. E la chiamiamo Tina? No, la chiamiamo Bianca. Perché è tutta bianca, con le gote rosa. La vedi? La vedi o no? Te? Te? Te? Qui. Thank you. il mare da lontano non è come il mare da vicino. È fermo. Sembra finto, non fa odore. Però poi, quando si scende fino a giù, e si scopre di sì, che il mare c'è e che ha odore di mare. Le onde e fa gli spruzzi e dentro ci sono anche i pesci, allora si può essere veramente felici. Però per essere veramente felici bisogna averlo visto almeno una volta il mare da lontano, bisogna avere creduto almeno una volta che fosse tutto finto. Prometto di amare la vita, di amare la terra e di amarti ogni giorno. Prometto di amarti di un amore particolare, e anche se domani è il mio ultimo giorno, guarda, non importa, perché resti tu e i nostri figli. Ricorderò questo giorno. Ricorderò che la vita è precaria. Ricorderò che la vita è precaria. E cercherò di amarti di un amore particolare. E cercherò di amarti di un amore particolare.